Impara a vivere qua fuori, rammenta bene. Finisci male qua fuori, rammenta bene. Se in questo gioco non ci metti fede, ascolta noi se vuoi sentire storie estreme, rammenta bene. Impara a vivere qua fuori, rammenta bene. Finisci male qua fuori, rammenta bene. Se in questo gioco non ci metti fede, ascolta noi se vuoi sentire storie estreme, rammenta bene. Rammenta bene il nuovo grido di battaglia, butta il cerino acceso su questo mare di paglia. E se muovi troppo le tue labbra, la bocca tappa, sei un cartone, questa qua non è una fiaba. Alterniamo alti e bassi, bisbigli con schiamazzi, mani strette con insulti e schiaffi. E ora correte, se ne volete ne avrete, dei miei colpi risparmiati alla parete. Vivo una vita irregolare, tipo tutto da rifare, comunque non me ne frega un cazzo, frade. Vivo di piccole passioni, e non mi confrontare coi tuoi amici buoni, non facciamo paragoni. Butto fuori storie brutte che ti pesano, impara ad aprire la mente come fai con Sesamo. 24 ore per non cedere, tutto può succedere, restare qua o andare là su Venere. Impara a vivere qua fuori, rammenta bene. Finisci male qua fuori, rammenta bene. Se in questo gioco non ci metti fede, ascolta noi se vuoi sentire storie estreme, rammenta bene. Impara a vivere qua fuori, rammenta bene. Finisci male qua fuori, rammenta bene. Se in questo gioco non ci metti fede, ascolta noi se vuoi sentire storie estreme, rammenta bene. Impara a vivere qua fuori, col coglione fuori mi faccio i cazzi miei. Non me la canto in giro, stupidi babè. Stanno sotto tiro, stanno dentro un giro che non fa per loro. Allora ognuno il suo lavoro, sono un tipo che rispetta. Prendo quello che mi spetta, niente da discutere, rispetta. Rispetta te, sono un signore, tu fai la carogna. Poi preghi il signore, ma lui non ti risponde. Non perché non vuole, ma perché non esiste. Ti restano le botte, lo stupore. Io già in partenza, non vedo, non sento. Non parlo, non cedo, non metto. So con chi fare il bastardo. La strada ti squadra, la mia squadra è in strada. Oh, meglio stare in guardia se ti guarda una guardia bastarda. Apprendo cose nuove quando vado in giro, dal tramonto all'alba. Impara a vivere qua fuori, rammenta bene. Finisci male qua fuori, rammenta bene. Se in questo gioco non ci metti fede, ascolta noi se vuoi sentire storie estreme, rammenta bene. Impara a vivere qua fuori, rammenta bene. Finisci male qua fuori, rammenta bene. Se in questo gioco non ci metti fede, ascolta noi se vuoi sentire storie estreme, rammenta bene. Impara, frate, compara, tutti gli animali in strada, chi riscuote pure chi la paga cara. Noi una piaga amara, se non siamo negli ambienti trendy, vestiti Prada, mia cara madama. È insana, la società assassina, spara, sparlo fuori dalla tana, scavo buche con la pala. Preferendo chi si estranea da quest'aria mala, ed ho imparato a stare nella zona sotterranea. Origine mediterranea di quella bastarda, correndo sull'asfalto fino a che non si riscalda. Fino a che non si riscatta, tira su la voce, feroce, non sta in pace perché va tutto veloce. Dammi sette in condotta, nella quiete chi complotta, chi ci mette fotta, chi sabotta, prendi nota. Ne impariamo a ruota di lezioni qua fuori, ne ho imparato più fuori dalle lezioni. Sì, impara a vivere qua fuori, rammenta bene. Finisci male qua fuori, rammenta bene. Se in questo gioco non ci metti fede, ascolta noi se vuoi sentire storie estreme, rammenta bene. Impara a vivere qua fuori, rammenta bene. Finisci male qua fuori, rammenta bene. Se in questo gioco non ci metti fede, ascolta noi se vuoi sentire storie estreme, rammenta bene.